copri tutto quanto. Tutto il nero, cambialo in bianco. Fai parlare anche ogni silenzio. Fai cantare ogni canto. Innocenza, l'innocenza. Brucia l'erba che semina arroganza. Sana le ferite di guerre infinite. Almeno per qualche giorno facci vedere il tuo volto bianco. Neve sotto i ponti. Neve in mezzo ai denti. Neve tra le cascine. Sbattute dalla collera dei venti. Neve a tutti i tuoi amori. Neve a tutti i tuoi dolori. Neve a tutte le tue angosce, le tue paure. Neve a tutti i tuoi piaceri. Neve a tutte quelle genti che aspettano, che credono imminenti la venuta di angeli dal cielo, pronti a darci una mano. Facci sentire tutti bianchi, anche se poi in fondo siamo tutti stanchi di credere ai soliti deficienti che sputano sul piatto di questo mondo. Proteggi i nuovi frutti, quelli che sono del divino i semi. Aspetteremo che crescano sani sotto la luce di questi raggi sereni. Neve sotto i ponti. Neve in mezzo ai denti. Neve tra le cascine. Sbattute dalla collera dei venti. Neve a tutti i tuoi amori. Neve a tutti i tuoi dolori. Neve a tutte le tue angosce, le tue paure. Neve a tutti i tuoi piaceri. Neve a tutte quelle genti che aspettano, che credono imminenti la venuta di angeli dal cielo, pronti a darci una mano.